il quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, quattro elementi per la nostra vita, in collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige, a cura di Emanuele Cenghiaro. L'equitazione detta all'americana o mount western è un modo di andare a cavallo diverso dall'equitazione tradizionale, quella inglese per intenderci. È la mo tipica dei cowboy e proprio dalla tradizione western è derivata una vasta serie di discipline che ai non appassionati forse dicono poco perché non sono specialità olimpiche. Nomi come il cutting, il reining, il timpenning, oppure il barrel racing, il pole bending, il western pleasure e così via. Eppure l'Italia è il paese europeo con il maggior numero di seguaci di questo stile di monta e di queste discipline, e sono molti i centri ippici specializzati. Non sapevamo, ad esempio, che a metà strada tra Padova e Vicenza esistesse una delle strutture più importanti e grandi del Nord-Est. Ne abbiamo incontrato il direttore tecnico, Stefano Pregnolato, istruttore federale di terzo livello, che è stato anche campione europeo di barrel racing e che da gennaio di quest'anno conduce, assieme alla socia Anna Maria, il ranch Newca Masiero in via Dante a Mestrino. La struttura ospita spettacoli e numerose competizioni in due grandi piste, una delle quali ampia 3.200 metri quadri e completamente coperta. Quando parliamo di discipline americane nell'equitazione, di cosa stiamo parlando esattamente? Stiamo parlando di equitazione western, che praticamente è l'equitazione che raccoglie tutte le discipline di monta americana e che vengono naturalmente svolte con una sella diversa da quella tradizionale, e anche se comunque fondamentalmente la base dell'equitazione è simile a quella tradizionale. Sono discipline che nascono dalla tradizione western, quindi della cavalcata e anche i lavori che venivano fatti dai cowboy in America. Sì, naturalmente è una disciplina che nasce infatti fa parte delle monte da lavoro, perché nasce da quello che erano nei cowboy d'America, dove che per il tipo di lavoro e di vita che si faceva tutto il giorno a cavallo è sorto questo stile, questa specie di sella, chiamata sella americana, appunto per la sua comodità e il fatto che si può stare sopra parecchie ore senza avere grossi problemi. Rispetto alle discipline tradizionali, quelle europee, diciamo, che cosa c'è di diverso? Praticamente sono competizioni quasi tutte svolte in piano, a differenza del jumping, che sono salto ostacoli, piuttosto che una gara di cross o di completo o da altre discipline tradizionali. E all'interno di tutte le discipline abbiamo, in base a quelle che sono le specialità, il reining, che praticamente è il dressage nella formula inglese, e dopo abbiamo le gare con il bestiame, che appunto è quello della tradizione western da sempre, che è il cutting, il timpenning, il ranch roping, il roping e tutte queste discipline fatte con il bestiame, per poi approdare a quelle che sono le gare di velocità, il barrel racing e il pole bending, che è praticamente una delle discipline che in questo momento in Italia sta andando tra le maggiori. Ma il cosiddetto rodeo, il tradizionale rodeo che siamo abituati a vedere nei film americani, esiste anche in Italia? Ma il rodeo sì, esiste in Italia, ci sono alcune organizzazioni che le fanno come a livello di eventi, di esibizione e quant'altro. Diciamo che non è come negli Stati Uniti, che negli Stati Uniti è un evento, cioè una specialità vera e propria, cioè una professione fare i bull rider, quindi fare i rodei, dove che appunto lo fanno per mestiere, là dove vince a volte il cowboy, ma a volte vince anche il toro. Queste discipline sono seguite anche in Italia? C'è uno sviluppo di queste discipline americane oppure siete un po' pionieri nel settore? Diciamo che queste discipline sono partite, sono ormai 30 anni fa, 30-35 anni fa, naturalmente è sorta come una nicchia. Oggi ha avuto un grande sviluppo rispetto a quello che sono le discipline tradizionali, e oggi in Italia si contano alcune decine di migliaia di praticanti della monta western, e a livello di discipline sportive siamo intorno ai 10-15 mila praticanti tra tutte le varie discipline, insomma. Quindi ci sono anche delle gare, delle competizioni che si tengono anche nella struttura che avete fatto partire a Mestrino. Sì, qua a Newca Masiero Ranch è un posto che si presta appunto per fare molti di questi eventi, e per praticamente quasi tutte le discipline qua riusciamo a farle. esempio l'11 e il 12 di giugno avremo le gare di performance western, che racchiudono un po' nell'insieme un po' tutte le discipline che vengono insegnate nelle scuole. Dopodiché il sabato sera dell'11 avremo le gare di team penning, praticamente una gara a squadre con i vitelli, e poi facciamo tutte le altre discipline. Il 26 giugno avremo una terza tappa del campionato regionale di barrel racing e pole bending, e dopo naturalmente organizzeremo anche altri eventi, tra cui reining, tra cui organizzeremo anche delle gare di roping, praticamente la famosa cattura del vitello col lazzo, e altre cose. Praticamente la nostra struttura si addice a fare qualsiasi tipo di disciplina, perché abbiamo tutte le attrezzature per farlo. Ci fermiamo per qualche minuto, a tra poco. Il quadrifoglio: consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. Torniamo in linea con il quadrifoglio. Oggi stiamo parlando di monta all'americana o western, e lo stiamo facendo con Stefano Pregnolato, istruttore federale di terzo livello e conduttore, direttore tecnico del ranch Newca Masiero di Via Dante a Mestrino. Stefano Pregnolato, perché uno dovrebbe orientarsi verso una monta tradizionale oppure una western? Con che criterio scegliere? Ma io penso che sia soltanto un fatto di approccio. Se uno vuole andare a cavallo e decide di venire qua, conosce questa disciplina, oppure qualcuno che va alla monta inglese e non gli piace il tipo di stile di monta o il tipo di stile di cultura, perché naturalmente sono due culture totalmente diverse, è una scelta che lo fa, ma è una cosa che poi la fa approcciando l'una all'altra e scegliendo quello che vuole fare. Però naturalmente l'importante è che sia fatto sempre con professionalità. Ecco, che non si può, uno non deve pensare che montare western sia un montare in qualche modo diversamente quello che possa essere la monta tradizionale. fatto professionalmente sono due discipline, sono due stili che professionalmente fatti sono molto importanti, farli in una certa maniera. Grazie a Stefano Pagnolato. Una delle discipline più spettacolari della mountain americana è il cosiddetto barrel racing. C'è un'associazione che si chiama NCHA che se ne occupa espressamente. Il presidente veneto è Roberto Rossato. Che cos'è l'NBHA? L'NBHA è un'associazione di mountain western e in modo particolare rappresenta National Barrel Roller Association, che praticamente è una disciplina di velocità. È una gara che si disputa attorno a tre barili. Noi ci occupiamo di divulgarla nel Veneto e promuoviamo poi per il campionato italiano, e chi vince potrà andare al campionato europeo. È una disciplina, se così si può dire, che ha un seguito, che è in crescita nella nostra regione, oppure è proprio sconosciuta? No, beh, nella nostra regione, il Veneto come regione per quanto riguarda il barrel era una delle regioni più forti. E negli anni precedenti ha avuto un calo e negli ultimi anni sinceramente la stiamo un po' ripromuovendo e quindi stiamo ritornando ancora ai vertici. Abbiamo con noi il campione europeo, il campione italiano che fanno parte del Veneto. Ringraziamo Roberto Rossato e vi invitiamo ad andare a vedere, se potete, alcune di queste competizioni o esibizioni, perché la spettacolarità di queste discipline potrebbe certamente avvicinare molti altri appassionati a questo mondo, al mondo dell'equitazione. Andiamo a chiudere ora la trasmissione con un paio di notizie. Pace fatta, sembra, tra le fiere di Milano e quella di Verona nel settore dell'agroalimentare. Le due fiere hanno infatti firmato un accordo per dare vita ad un unico appuntamento internazionale annuale dedicato all'ortofrutta che punti su innovazione sui mercati esteri. La nuova manifestazione unirà il Fruit Innovation di Milano e il Fruit and Veg System di Verona, avrà cadenza annuale e si svolgerà alternativamente a Verona negli anni pari, dando enfasi alla filiera e quindi alle tecnologie agricole, e a Milano negli anni dispari, con un focus invece sul prodotto finito. La prima edizione della nuova fiera si svolgerà dall'8 all'11 maggio del 2017 in concomitanza con Tutto Food a Milano. L'accordo prevede iniziative congiunte anche nel settore del vino curate da Verona Fiere e da Vinitaly International Academy. Un altro accordo interessante è quello tra Coldiretti Veneto e Paluani S.p.A. firmato proprio ieri. Merendine, croissant, panettoni e pandori della nota azienda veronese saranno prodotti anche con uova, burro, latte e zucchero di origine italiana grazie ad un progetto che premia le imprese agricole e le strutture economiche del settore agroalimentare interregionale italiano. Ad esempio verrà utilizzato zucchero della Copro B, la cooperativa di produttori bieticoli, e il latte del consorzio Virgilio che riunisce le latterie Veneto-Lombarde. Con questa notizia è tutto, vi diamo appuntamento con il quadrifoglio la prossima settimana. Se volete ci potete riascoltare sul sito internet www.bluradioveneto.it. Avete ascoltato il quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, quattro elementi per la nostra vita, in collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige.